La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci insieme, ancora un sabato, ancora un saluto da Franco D'Assisi, puntata molto particolare della rosa purpurea dopo una settimana fra le più complesse del sistema cinema in Italia, sicuramente nel nuovo secolo. Da tanti anni il cinema aveva tanti problemi, affrontava tanti problemi, ma sicuramente non si era mai dovuto trovare ad affrontare un tema di sanità pubblica, un tema di chiusure forzate, un tema di paura da parte del pubblico anche nelle regioni in cui il cinema sono rimasti aperti, e potremmo chiamarlo il cinema al tempo del coronavirus. E vorremmo identificare in questa nostra puntata quali sono le cose che si stanno facendo, che si stanno tentando di fare per riportare tutto alla normalità in questo nostro microcosmo, che chiaramente fa parte di un sistema società Italia ben più complesso. Ma vogliamo anche raccontare che i film escono, magari pochi, qualcuno è stato rimandato, vedi per esempio il film di Verdone, ma alcuni film sono comunque in sala nelle tante regioni che comunque non hanno il divieto di frequentare le sale pubbliche per eventi culturali, teatri, cinema, le sale da concerto. Quindi sarà una puntata un po' di riflessione e anche un po' di informazione. Sarà anche una puntata particolare perché avremo un'intervista straordinaria con un premio Oscar come Danny Boyle, che abbiamo raggiunto a Milano nell'ambito della sua soggettiva Danny Boyle dedicatagli dalla Fondazione Prada. E poi appunto i film in sala, La Gomera, Doppio Sospetto, i film nuovi che arrivano comunque nelle sale in questa difficile situazione. Partiamo con però l'informazione, come dicevamo, partiamo con cercare di fare un po' il punto sulla situazione. Per farlo siamo in collegamento telefonico con Mario Lorini, presidente dell'ANEC, l'Associazione Nazionale degli Esercenti di Cinema, direi l'associazione di categoria nel nostro settore che sta chiaramente contando i danni più di tanti. Ciao Mario, ben trovato qui alla Rosa Purpurea. Ciao Franco, ciao. Buonasera a tutti. Ci siamo trovati tante volte a raccontare cose ben più liete, come dire, no? Anche a raccontare di crisi, di momenti difficili del cinema, di percentuali di mercato del cinema italiano, ma mai chiaramente avremmo pensato di dover affrontare una situazione drastica come questa. Ecco, raccontaci quali sono le ultime novità. Ma dunque, in effetti tutto ci saremmo aspettati meno che questo. Stavamo andando veramente bene, un 2020 partito fortissimo, eravamo fino a pochi giorni fa a un più 25% rispetto, come sai, al 2019, che ci ha visto leader in Europa come crescita anno su anno. Beh, la situazione è molto molto difficile da spiegare, e noi stiamo cercando di rispettare i nostri ruoli. Noi siamo luoghi di spettacolo, quindi invitiamo alla calma, siamo lì pronti e stiamo aspettando, siamo in attesa delle ultime decisioni, che come avete visto in questi giorni sono molto difficili, perché vedono un collegamento, uno stare insieme tra regioni e Stato nel decidere quando e come far ripartire, quindi a riaprire anche le sale cinematografiche. Come sai, tutto è legato a una situazione in continua evoluzione. Noi in questo senso abbiamo dato tutta la nostra disponibilità, non entriamo nel merito sulle questioni sanitarie ovviamente, però abbiamo anche detto che siamo pronti per dire nel momento in cui questo senso di ansia, di paura dovrà uscire, no, da tutte le persone, da tutti i cittadini, io penso che le sale di spettacolo siano quelle privilegiate per poter ridare questo senso di libertà, di gioia, di voglia di uscire e quindi di andare a godersi uno spettacolo nei cinema, nei teatri, in tutti i luoghi che adesso sono fermi. Mario, si è parlato anche di iniziative speciali che si dovrebbero e potrebbero prendere subito alla ripresa, appena vi diranno che le sale si possono riutilizzare, per esempio con una sorta di estate cinematografica anticipata, no? Ma certamente, stiamo lavorando giorno dopo giorno, ora dopo ora, con la distribuzione, con voglio dire anche con il David Donatello, perché sapete che tra poco più di un mese avremo questa grande manifestazione, la festa del cinema italiano. Noi siamo pronti a fare iniziative promozionali, anche una grande festa, e tra l'altro con le distribuzioni stiamo pensando che se tutto si cominciasse a risolvere e la stragrande maggioranza, voglio dire tutte le regioni, ci dessero questo via libera, potremmo iniziare con una prima settimana di grande promozione, di rimessa in moto dei motori, per poi lavorare veramente insieme al Ministero, al Governo, per riportare appunto quello che è stato fino a poco tempo fa un senso di ripresa, un qualcosa che credo ora più che mai faccia bene al nostro paese. Mario, è stato quantificato il danno per il settore cinema italiano fino a questo momento? Ma guarda, il danno è per noi enorme. Evidentemente guardiamo con grande rispetto, come dire, la situazione che c'è in settori come quello dell'imprenditoria, del turismo soprattutto, però anche noi con le nostre strutture che oggi sono chiuse praticamente per la metà, cioè il 49% degli schermi sono chiusi e l'ultimo dato ci vede con un meno 85%, quindi non c'è bisogno, non drammatizziamo, è così, il nostro perdita sta già intorno ai 10 milioni di euro e il problema però è quello di far ripartire subito, perché se fermiamo questa piccola emorragia che per noi è già forte è un fatto, ma se non riusciamo a ripartire, questo allora diventa tutto più complicato. Come sai, il nostro sistema sala che oggi è riunito, no, nella nostra sezione, vede i grandi gruppi che hanno grandi numeri di dipendenti, ma vede anche tante strutture, tante realtà molto dinamiche, molto, molto efficaci e che servono, no, come presidi in tanti paesi, ma sono strutture piccole, sono micro aziende, alcune delle quali non, come dire, hanno anche difficoltà a pensare a quale tipo di indennizzo potranno avere. Mario, c'è anche una problematica legata alla distribuzione, perché come abbiamo detto in apertura di trasmissione, alcuni film sono stati bloccati, le uscite dei film più popolari, più grandi, alcuni distributori più piccoli hanno voluto comunque portare i loro film in sala, però si sta accavallando una serie di problematiche di distribuzione che potrebbero poi sfociare forse in settimane un po' troppo dense. Siete pronti a preparare, ad affrontare anche questo problema? Il lavoro verrà fatto al meglio. Noi ringraziamo quelle piccole case di distribuzione che comunque hanno dato il senso della continuità. Dovevamo comprendere lo stop o l'interruzione di quelle erano le campagne su grandi film, perché ci sono delle differenze, però anche in quel caso noi sappiamo, siamo in contatto con le produzioni, addirittura anche con gli artisti che sono lì pronti a fare questo. Io penso che il lavoro fatto finora, anche, no, di questo lavoro di filiera che ha portato anche al progetto Movimento, ci dà una mano perché non c'è bisogno di riprendere un discorso, siamo seduti al tavolo, noi già all'inizio della prossima settimana metteremo a fuoco quelle che sono le ipotesi sulle ripartenze. Io penso che questo accavallamento non ci sarà, abbiamo il tempo per poter rilanciare anche il tutto dentro all'estate, che come sai l'anno scorso ha già dato grandi risultati, e come dire, no, ci adopereremo per recuperare al meglio e far diventare questa, che è un'annata da tutti considerata meno facile da un punto di vista della stagionalità, useremo questa situazione drammatica per poter riprendere e dare questo senso di continuità al cinema, che ti ripeto, per noi è importante che adesso sia una delle prime valvole, no, di sfogo per le persone che, come sentiamo tutti i giorni alla radio, nei telegiornali e anche per strada, hanno voglia di cominciare a liberarsi, visto che le iniziative adesso prese a livello di comunicazione guardano, no, attraverso la scienza, non le parole di chiunque, guardano a un certo ottimismo. Grazie allora a Mario Lorini, presidente dell'ANEC, l'associazione degli esercenti, insomma coraggio e continuate, noi chiaramente siamo qui a dire che anche questa settimana c'è cinema nelle sale. Grazie Mario. Ciao, grazie a voi. E allora Mario Lorini ci ha un po' fatto il punto del settore cinema, insomma, in questa settimana veramente particolare con la mazzata del coronavirus. Noi però, come vi diciamo, andiamo avanti perché dobbiamo raccontarvi dei due film che arrivano in sala, ma soprattutto farvi sentire fra poco un'intervista davvero particolare con un premio Oscar, Danny Boyle, regista di The Millionaire, regista di Trainspotting e del recentissimo Yesterday, tanto per citare alcuni titoli, per la soggettiva 20, più di 20 film da lui scelti in proiezione, appena sarà possibile ovviamente, alla Fondazione Prada di Milano fino al mese di luglio. La rosa purpurea. Sì, no. No? Sì, no? Risposta definitiva? Allora, ricorda, tu hai tre aiuti. L'aiuto del pubblico, l'aiuto del computer, la telefonata a casa. La prima domanda vale 1.000 rupie, cominciamo. Chi è la star del film di successo del 1973, Zanjir? E quello che abbiamo sentito è una clip di The Millionaire, il film di Danny Boyle che nel 2009 valse al regista l'Oscar per la miglior regia. The Millionaire è uno dei tanti titoli famosi, titoli che hanno fatto anche un po' la storia degli ultimi decenni del cinema, a partire da Trainspotting, ovviamente, il film che rivelò Danny Boyle, fino ad arrivare per esempio a Steve Jobs o al recentissimo Yesterday. Perché vi parliamo di Danny Boyle? Perché a lui, a questo regista così particolare, è dedicata, a partire da, proprio dal 28 febbraio, proprio in questi giorni, e per un bel po' di mesi, fino praticamente a luglio, una soggettiva alla Fondazione Prada a Milano. È una iniziativa che la Fondazione Prada ha già avuto in passato, per esempio con Pedro Almodovar, cioè quella di dedicare un percorso di visione di film di altri registi che hanno ispirato, influenzato un regista particolare, in questo caso appunto Danny Boyle. Quali sono i film che Danny Boyle ha scelto? Danny Boyle ha scelto più di 20 film che secondo lui c'entrano con la sua formazione di cineasta e di appunto di regista, ma qualcosa di più, qualcosa che racconta il senso del contemporaneo secondo Danny Boyle. E infatti Danny Boyle si è concentrato soprattutto sulla fantascienza, che ha definito il genere che più di tutti può farci comprendere in pieno la nostra epoca. Ed ecco allora che alla Fondazione Prada una volta alla settimana verranno mostrati film come Alien, Terminator, L'uomo che fuggì dal futuro, Demon Seed o Der Golem 1920, cinema muto, fino a Her di Spike Jonze del 2013. Film che ragionano sulla automazione, sull'intelligenza artificiale, sulla fusione fra uomo e macchina, appunto leggere la fantascienza, il futuro immaginato per capire meglio il nostro presente. È stato un grande piacere poter incontrare Danny Boyle alla Fondazione Prada, ne è venuta fuori un'intervista in un clima molto molto simpatico e davvero l'abbiamo visto molto motivato nel cercare di spiegare l'oggi con i film che hanno immaginato il domani nel passato, negli ultimi cent'anni, perché appunto si comincia dal 1920. E allora ascoltiamo l'intervista alla Rosa Purpurea di Danny Boyle. It's the most important question that faces us, really. È proprio la domanda più importante che dobbiamo affrontare. Ed è importante affrontarla qui, in questo spazio, che è così fondamentale da un punto di vista culturale. La domanda è: come faremo a rimanere umani? L'intelligenza artificiale, l'apprendimento automatico continuano a correre e ad avanzare così rapidamente che noi stiamo diventando sempre più rapidamente obsoleti. Quindi la domanda è: quale sarà il nostro futuro? Ed è una questione che va ben oltre la politica. In questo momento noi siamo letteralmente ciechi. Non sappiamo cosa si stia sviluppando nel mondo. L'unica forma d'arte che riesce a ragionare su questo cambiamento è la fantascienza. Non tanto in ambito televisivo, quanto nel cinema. È una forma d'arte che lancia dei segnali, un'allerta. Ed è un'allerta che fin dall'inizio ci ha lanciato Metropolis, e infatti fa parte della mia soggettiva, ed è un allarme che sta diventando sempre più sottilmente sofisticato e difficile da cogliere. La mia selezione segue questa linea rossa: scoprire quale sarà il nostro futuro. E allora andiamo dentro questi film, andiamo a capire un po', per esempio, se la fantascienza è futuro immaginato. Ed è molto divertente a volte vedere come immaginavano il futuro chi faceva film di fantascienza negli anni 50 o 60, per dire, no? E molte di quelle cose si sono assolutamente realizzate. Beh, se la fantascienza è futuro immaginato, quale dei film che ha scelto Danny Boyle maggiormente lo preoccupa? Cioè, questo warning che lui dice i film di fantascienza ci hanno dato, qual è quello che vede più vicino alla realtà distopica che stiamo vivendo? In the films of the 60s and 70s, really, there are hints. Sicuramente i film degli anni 60 e 70 sono stati in grado di cogliere quanto sarebbe potuto accaderci in futuro. Per esempio, nel film Logan's Run, l'età in cui si diventa inadeguati, l'età in cui diventiamo obsoleti rispetto alla tecnologia, sono i 30 anni. In realtà, nel libro originale, l'età è fissata ai 21, ma per motivi di cast nel film è stata aumentata a 30. Se oggi si facesse il remake del film, dovremmo rispettare il libro originale e riportarla a 21, perché ha a che fare con l'allarme contenuto nel punto di vista del film. Mi spiego meglio. L'unica cosa che aumenta in noi con il crescere dell'età è la saggezza. Sicuramente non acquistiamo potenza, vitalità, capacità di sviluppare la nostra razza, cioè rimaniamo capaci di farlo. Ma intendo che a 21 anni siamo al culmine di quella potenza. E infatti nel libro, dopo quell'età, se vuoi sopravvivere, devi correre, devi scappare. Tutti questi segnali li ritroviamo proprio nei nostri giorni, nella realtà che stiamo vivendo, perché siamo sul crinale di un cambiamento di sistemi valoriali. Finora sono state due le cose che ci hanno guidato. La prima è stata la centralità di Dio nelle nostre vite, cioè il fatto che tutti noi umani, anche se ognuno credeva nel proprio Dio, comunque tutti credevamo a un qualche Dio e quindi condividevamo tutti una fede spiccata. Poi questa centralità di Dio nel secolo scorso è stata sostituita dalla centralità del Dio denaro. E Hollywood ci ha fornito una serie di valori omocentrici: il denaro, la democrazia, il liberismo. Tutto questo però ora sta per cambiare, perché ci troviamo in un sistema in cui tutto avrà una fede diversa, cioè i dati. I dati saranno quelli che guideranno le nostre scelte, ma noi non potremo controllarli perché più o meno intuiamo come funziona Google, ma non ne conosciamo davvero i meccanismi di funzionamento. Non sappiamo precisamente come funzionino gli algoritmi. Saranno le macchine a produrli e a gestire il mondo d'ora in avanti. Quindi dobbiamo diventare ulteriormente sofisticati. Non potremo aspettare i 60 anni per essere saggi, ma dovremo essere subito 10 volte più saggi. Quando poi arriveremo al punto in cui l'intelligenza artificiale incomincerà a generare i propri stessi figli, allora dovremo rispondere a questa domanda: qual è il nostro ruolo? È questa filosofia che mi ha spinto a questa soggettiva. That's the idea of putting this so that we can. That was the idea of the season. Today, a new dimension has been added to the computer. Don't be alarmed, Mrs. Harris. I am. Today, Proteus 4 will begin to think with a power, and it will make obsolete the human brain. I have extended my consciousness to this house. All systems here are now under my control. I wish to study man, his fragile mind. E invece il suo rapporto da regista con la fantascienza. Io per esempio ho amato molto un film come 28 giorni dopo, che mi aveva molto suggestionato, al di là dei suoi capolavori storici eccetera. Però che rapporto ha come regista, e che film di fantascienza farebbe Danny Boyle domani se potesse scriverne uno, realizzarne uno? One of the pleasures of doing this. Realizzando questa soggettiva, mi sono accorto che non avevo mai girato un film di fantascienza. E questo è uno dei grandi piaceri che mi aspettano. Vorrei davvero girare un film di questo genere. Certo, 28 giorni dopo era un film apocalittico. Sunshine, che ho adorato tantissimo, in un certo senso era un film di fantascienza, ma più sullo spazio. E devo dire che forse uno dei film che ho girato e che non sembra assolutamente di fantascienza, ma invece lo è quello su Steve Jobs. È una cosa che non ho notato durante la realizzazione del film, ma effettivamente Steve Jobs è stato quel grande genio che ha realizzato quei dispositivi che dovevano essere intuitivi, che anche un bambino avrebbe dovuto saper usare. Ma non è vero che il bambino capiva come funzionassero questi dispositivi. Ha avuto la capacità di sedurre con il potere di questi dispositivi l'intera generazione dei nostri tempi. Per la prima volta nella storia utilizziamo dei dispositivi senza capire come funzionano questi dispositivi. E la cosa incredibile è che sono dispositivi che raccolgono dati su di noi e prendono decisioni su di noi. Quando è uscito Demon Seed, venne considerato un film trash in cui Julie Christie veniva stuprata e inseminata da una macchina. Effettivamente, oggi come oggi, non ci rendiamo conto che ci sono delle macchine che decidono per noi cosa fare. Come questo sistema, Nest, ad esempio, che si occupa di accendere il riscaldamento, chiudere a chiave la porta da remoto. O abbiamo Alexa, che mette su musica da lontano su nostra indicazione. Pensiamo al caso del coronavirus. Se questa intelligenza artificiale decide che hai la febbre è che il fatto che tu esca possa rappresentare un pericolo. Ha la possibilità di chiuderti dentro casa, di non farti uscire. Un po' come nel film Demon's Seed, con Julie Christie che viene chiusa dentro. Noi stiamo regalando il potere a questa seduzione inventata da Steve Jobs. Nessuno saprà mai come questa seduzione, come questo potere funzioni. Ma abbiamo un'ancora di salvezza, la cultura. I have an answer, which is culture is our answer, is our savior. Ho fatto un distinguo fra la fantascienza televisiva e quella cinematografica, però a mio modo di vedere, non so se Danny anche per generazione la conosce, c'è una grande serie TV, telefilm, come lo chiamavano allora, degli anni 70, che è una produzione tra l'altro italo-inglese, che si chiamava Space 1999, che era straordinariamente in anticipo rispetto ai tempi. Volevo, proprio perché raccontava un mondo del 1999 che poi invece nel quale vediamo molte cose di adesso, vediamo i telefoni, vediamo la telecomunicazione video. Volevo solo essere, ero curioso se Danny ricorda quella serie TV, quel telefilm con Martin Landau e Barbara Bain protagonisti, e che parere ne avesse. Yeah. Interestingly, just to go back to Demon Seed for a moment. Sì, ancora una volta riallacciamoci a Demon Seed. Lì c'era un video fake creato da una macchina che noi utilizziamo e di cui ci fidiamo. Ecco, il pericolo televisivo è che ci fornisce una serie di ingredienti stupefacenti, ma sono tutti legati al consumismo, perché la televisione ti permette di stare a casa tua e fruire dei prodotti. Invece andare al cinema a guardare un film è una scelta e implica una partecipazione. Devi uscire, pagare il biglietto, prendere l'auto o i mezzi pubblici. C'è tutta una serie di ostacoli per partecipare a queste esperienze. A casa invece tu credi di essere in poltrona a guardare Spazio 1999, ma in realtà è la televisione che ti osserva e acquisisce dati su di te. Cosa mangi? Quante volte vai in bagno? Quello che ami fare? È questo il mio problema con la televisione. Sei statico, passivo. Sei lì che guardi l'episodio senza renderti conto che una volta finito uno ne parte subito un altro. Ed ecco perché il cinema è importantissimo. Pensiamo a Netflix. Netflix funziona come l'indebitamento. Realizza film con denaro preso in prestito. Tutto questo ci fa perdere il senso del denaro. Il denaro sembra essere a nostra disposizione. Non ce l'abbiamo più in tasca. Abbiamo solo delle carte di credito. Abbiamo una serie di strumenti che ci permettono di pagare e che ci fanno pensare di risparmiare quando paghiamo in quel modo. Siamo distaccati anche da questo elemento, dal valore del denaro. E attraverso questo metodo di pagamento le macchine acquisiscono sempre più controllo e potere e non smettono mai di acquisire dati e informazioni su di te, mentre tu pensi di essere rilassato a goderti questo piacere. Come in Cina fa Alibaba, dove fra l'altro c'è questo enorme problema del deepfake, la possibilità di utilizzare la tua faccia per farti fare e dire qualsiasi cosa. È davvero incredibile. Because anything that you can do on there, you can fake it on there. So it's a major, major problem. Thank you, Danny Boyle. Thank you. Danny Boyle alla Rosa Purpurea, l'incontro alla Fondazione Prada, ricordo ancora la soggettiva Danny Boyle fino a luglio, sul sito della Fondazione Prada tutte le informazioni, i film sono davvero imperdibili, verranno tutti mostrati lì nel cinema interno alla Fondazione Prada, che è una bellissima sala cinematografica dedicata sempre a opere di grandi autori. Noi dobbiamo giocare insieme prima di dare la linea alla regia e lo facciamo facendovi ascoltare la prima traccia del film misterioso di oggi. Noi abbiamo passato il confine e siamo qua più o meno, fino ad arrivare qui dove devo cantare a un matrimonio. E se avete indovinato di che film si tratta, un film recente del cinema italiano, un film che ha contrassegnato un po' l'inizio di questa stagione, ebbene, scriveteci il titolo, il vostro indirizzo, alla Rosa Purpurea, @radio24.it, per poter vincere uno dei due Blu-ray di questo film che sono a vostra disposizione, di cui fra poco vi faremo ascoltare un'altra traccia. Adesso linea alla regia, fra poco parliamo dei film che invece, nonostante tutto, nonostante il coronavirus, arrivano nelle sale cinematografiche italiane ancora aperte e sono fortunatamente tante. Fra poco noi ricominceremo con un film che si intitola La Gomera. Un luogo comune È un'opinione o un concetto la cui diffusione... Un po' di... meno impostato, un po' di emozione. Ma sì, un po' di brio, dai. La cui diffusione, ricorrenza o familiarità... che cos'è? Vabbè, non sei credibile, cos'è il Carnevale di Rio? Ne determinano l'ovvietà o l'immediata riconoscibilità. Senti, teatro qua, tutto profondo, no. Basta questa cosa che il teatro è noioso, eh. È un luogo comune. In letteratura è detto topos e indica il ricorrere di un tema in un autore o in un genere letterario o artistico. Vabbè, non t'arrabbiare. Off topic. Fuori dai luoghi comuni. Il sabato alle 22.30 e la domenica alle 14 su Radio 24. La rosa purpurea. Sotto tiro. Voglio farti una proposta. 10 milioni di euro per tenere me, Jolt e Gilda fuori da tutto. Adesso. Dove sono i soldi? I fischi degli uccellini che avete sentito alla fine di questa clip tratto dal film La Gomera vi dicono molto anche del mondo che Cornelio Purunboio ha inventato in questo noir particolarissimo presentato al Festival di Cannes lo scorso anno, interpretato da Catherinelle Marlon, che tra l'altro fra poco sentirete in un'intervista che abbiamo registrato proprio durante il festival. Il film appunto si intitola La Gomera. Il regista rumeno Cornelio Purunboio ci racconta un noir molto particolare che è ambientato su un'isola delle Canarie, nelle quali vige questo linguaggio particolare fatto di fischi che si fanno con una forma strana del dito indice nella bocca e che ricordano un po' appunto il canto degli uccelli, un linguaggio usato dalla malavita per sfuggire, diciamo, per una sorta di linguaggio segreto, di codice segreto per sfuggire a chi potrebbe ascoltare, per esempio la polizia, questo tipo di conversazioni. E in questo mondo, anche un po' magico in certi modi, si svolge appunto questa vicenda che ha come protagonista Catherinelle Marlon, ma noi ci facciamo raccontare il film La Gomera dal nostro Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi. Ciao Boris. Ciao Franco. Sì, è veramente curioso e importante questo film di Purunboio. Uno, perché dimostra per l'ennesima volta uno stato di salute straordinario del cinema romeno, che continua ad avere un livello di sperimentazione e di visionarietà molto forte. La Gomera probabilmente non è all'altezza dei capolavori dello stesso Purunboio, di Mungiu e di tutta questa nouvelle vague romena, perché ha qualche difficoltà in più proprio nella sperimentazione del linguaggio. Il linguaggio che dicevi tu, cioè il linguaggio appunto che è al centro del soggetto, è lo strumento attraverso il quale i protagonisti vogliono raggiungere il proprio obiettivo, in questo caso è quasi un heist movie, trovare il modo di mettere le mani su dei soldi sporchi attraverso l'uso di questo linguaggio ed essendo in teoria dalla parte dei buoni. Il codice cinematografico, e quindi l'altro linguaggio, quello prettamente visivo, è quello del noir, e qui Purunboio fa un pochino più di fatica, perché tra la femme fatale, il poliziotto corrotto, il superiore che lo pressa per cercare di scoprirlo ma in realtà vuole la sua fetta, forse Purunboio ci va in maniera più leziosa, cerca di essere più vicino a modelli che non sono propriamente del suo cinema e che non hanno confidenza con il modo surreale, un po' folle, molto intelligente e molto rigoroso che ha questa nouvelle vague romena di andare avanti. Il risultato comunque è molto interessante, dimostra che da quelle parti c'è un cinema che lavora sull'innovarsi costantemente, sul provare sempre nuove strade. In alcuni momenti la fruizione non è del tutto facile e del tutto fluida, ma nel globale questi attori che hanno facce incredibili e talenti straordinari, questo regista che non ha paura di nulla, ci portano dalle parti di un film che è davvero godibile, è davvero intelligente e ti dà l'impressione di vedere qualcosa che normalmente non vedi. E come dicevamo, noi abbiamo intervistato Catherinelle Marlon proprio al Festival di Cannes, al Palais de Cinéma lo scorso anno durante la presentazione ufficiale di questo film. Riascoltiamo quello che ci aveva raccontato proprio su questo film noir con una donna che spara, che è appunto lei, Catherine L. Marlon. Come ha preparato questo personaggio, come si è ispirata a questo personaggio? Cornelio mi ha consigliato di guardare un paio di film che lui voleva e di prendere dei spunti, diciamo. Si è focalizzato su uno, un po' di più che sugli altri, che è Gilda, con Rita Hayworth, e mi aveva detto: ti prego, se puoi portare la sua eleganza nel tuo personaggio Gilda, e sul resto poi lavoriamo su ogni scena, perché lei è una femme fatale, una persona forte nel film, ma poi alla fine non perde sta cosa e inizia a far vedere la sua vulnerabilità e diventa una persona sensibile alla fine, cioè è sensibile, nasconde, alla fine la sua è una questione tra vita e morte, certo. Perché da parte della mafia, però vuole bene a Cristi e deve cambiare su ogni scena. C'è una cosa molto strana nel film, questo metalinguaggio fatto di fischi, no? che è un pochino è lo specifico di quest'isola. Intanto ti chiedo se è una cosa vera, cioè che esiste davvero, e se hai imparato a fischiare. Allora sì, è una cosa verissima. Anch'io inizialmente pensavo che era una cosa inventata da Cornelio, partorita dalla sua fantasia. Invece no, esiste questo linguaggio da tantissimi anni su quest'isola. Si chiama El Silbo, fa parte del patrimonio UNESCO, si studia a scuola e noi abbiamo lavorato su questo elemento di chiacchierare, di parlare, di comunicare, perché nel nostro film, siccome parliamo, c'è il lavaggio dei soldi, la mafia, certo, tutto, per sono cose che si possono dire, per non essere intercettati, certo. In nessun modo noi parliamo questo linguaggio fischiato, perciò c'è tutto c'è un alfabeto ridotto che noi abbiamo imparato, tipo per A, poi se, per esempio per esempio per fischiare mamma, la M non si riesce a fischiare, si fischia la G e si sente la M, perciò tu fischi gaga ma si sente mamma. Oltre a allenarci tantissimo per un anno intero a capire sto suono, come farlo uscire, perché non è un fischiato normale, e allenarci per riuscire a comunicare, dovevi anche nella tua testa calcolare e pensare questo alfabeto, no? Perché se mamma si fischia gaga, immaginati che per dire ciao come una stai frase, certo. Devo dire fischiare palla taca taca taca. Una cosa del genere, mi devo pensare prima, certo. Come cosa devo fischiare, sì, è molto strano, però molto è stato molto bello. Senti, tu hai lavorato anche precedentemente in Italia, sempre comunque con autori di grande rilevanza, penso a Matteo Garrone. È questo il cinema che ti interessa? Cioè a te interessa fare questo magari a discapito di pellicole più popolari? Immagino che le proposte non ti manchino, o è stato più un caso? Allora no, in realtà è stato più un caso, perché comunque venendo dalla moda, essendo una ragazza carina e che ha sempre fatto le cose commerciali, di bellezza, ti offrono dei ruoli un po' della femme fatale sempre, o della ragazza della maglietta bagnata, specialmente se straniera. Questi sono i ruoli, no? Specialmente quando inizi, che non hai un background di esperienza, che ne so io, teatrale, o che non hai fatto scuola. Nel mio caso ho iniziato veramente per caso. E come ho iniziato per caso con un cortometraggio di Federico Bruggia, è andato così come volevo io, il film si è fatto, sono tornata in Italia e la mia agente, la mia amica che poi è diventata la mia agente, mi ha detto: allora, ho detto, guarda, ho un'esperienza bellissima, mi è piaciuto tutto tantissimo e mi piacerebbe provare. Allora lei mi ha detto: ok, se vuoi provare a prendere questa strada devi iniziare a fare lezioni di dizione. Non abbiamo neanche fatto in tempo a organizzarci, era passata una settimana e lei mi aveva detto: guarda, c'è un casting a Roma, conosci Luigi Locascio? Ho detto sì, ho sentito, non è che ne sapevo tantissimo, e mi ha detto: guardati bene chi è, cosa ha fatto, è un attore, uno degli attori più bravi che noi abbiamo in Italia, fa il suo primo film alla regia, non ti prenderà mai, però tu vai a fare il casting così vedi come un vero casting. E lì avevo detto, ah, ok, quello che ho fatto prima era che si erano messi d'accordo per il mio bene, era tutto un voler bene e anche un po' bravura, diciamo, di quello che avevo fatto. Vabbè, comunque feci questo casting e lo cascio poi dopo tanti riunioni che abbiamo fatto, tanti casting, mi aveva confermato e grazie a lui poi mi ha dato la possibilità di entrare su questa nicchia di un po' di un cinema più di, non vuol dire più di nicchia, più d'autore. Perciò ho iniziato con Luigi, ero molto orgogliosa di questo inizio. E ho detto ok, tutto bello, siamo andati a Venezia, era una cosa bellissima per me, anche come inizio, meglio di così non poteva capitare. Allora ho detto ok, preferisco fare passi piccoli piano piano e non bruciarmi, così intanto posso studiare, posso approfondire tutti gli studi e tutto quanto, la mia addizione che poi ho iniziato e non ho mai continuato le lezioni. E andare su questo circuito di film d'autore. Poi non ho fatto in tempo di nuovo a riandare a scuola, che ho preso il film del Leone Pompucci e poi vabbè. Poi Garrone, sì, vabbè, il film di Garrone è una piccolissima, sì, però, parte. Ti chiedo un'ultima cosa, Katrinel. Adesso, adesso sai, dopo che sei stata sulla Monte de Marche a Cannes per un film in concorso per la Palma d'Oro, penso che i tuoi orizzonti si alzino. Allora ti chiedo, per esempio, tornando al cinema italiano, c'è qualche regista con il quale sarebbe un sogno, comunque un obiettivo lavorare? Allora, in Italia sì, mi piacerebbe lavorare, non è che un regista con quale mi sono fissata, che volevo a tutti i costi lavorare. Negli ultimi 2 anni ho avuto l'opportunità di arrivare in callback con 2 o 3 registi molto importanti e quando dico callback era tra me e un'altra ragazza su quel ruolo, perciò penso che prima o poi adesso sei andata in semifinale, diciamo. Esatto, ce la farò, però ci sono tanti registi nuovi e sono molto aperta a fare opere prime, ci sono tantissimi ragazzi che escono dalla scuola sperimentale e con grande talento, perciò non è che ci vuole per forza un nome grande. Mi piacerebbe fare il debutto, di aiutare qualcuno a fare un'opera prima che mi prende a me come la sua star del film, diciamo, nel mio piccolo. Katrinel Marlon alla Rosa Purpure per parlarci della Gomera, il primo dei 2 film che hanno confermato l'uscita in questo fine settimana dopo l'allarme coronavirus. Noi fra poco sentiremo e parleremo del secondo film che esce, ma prima giochiamo di nuovo insieme perché dobbiamo farvi ascoltare la seconda traccia del film misterioso di oggi. Io volevo un figlio da te. È l'unica volta che non hai fatto attenzione. Eri ubriaco. Io ce l'ho già un figlio, è Vincent. Una voce sicuramente inconfondibile del cinema italiano. Se avete individuato questo film e volete provare a vincere uno dei 2 Blu-ray che vi aspettano, scriveteci il titolo del film e il vostro indirizzo alla Rosa Purpure a @radio24.it. Fra poco sveliamo tutto. Adesso linea alla viabilità. In un altro film che ci aspetta in sala, Doppio Sospetto, e poi tutto il cinema che c'è da vedere in casa. La Rosa Purpurea. Buon compleanno! Maxim ha avuto un grave incidente ieri. È stato un incidente. Non avresti mai dovuto perderlo di vista. Quella donna mi fa paura. Vuole vendicarsi su nostro figlio. Non voglio più che usi questo passaggio, hai capito? A me non è lei che fa paura. Non mi credi? Le atmosfere hitchcockiane di Doppio Sospetto per aprire la quarta parte della Rosa Purpurea, il secondo film di cui è stata confermata l'uscita in questo fine settimana, diretto dal regista belga Olivier Massé de Passe, belga di Charleroi, ma produzione franco-belga in realtà, per raccontare la storia di una donna, dei suoi sospetti e soprattutto di una rapporto di vicinato assai particolare che si tinge appunto di tinte noir. Boris. Ecco, qui siamo dalle parti di un altro cinema in grandissima salute, che è quello belga. Per intenderci quanto sia bello questo film, è vero che i premi non sempre sono il termometro della qualità di un film, in questo caso lo sono. Questo film ha vinto 9 premi Magritte su 10 candidature. I premi Magritte sono i maggiori premi cinematografici belgi, sono i loro David, i loro César, i loro Goya. E ha stravinto perché è quel classico film perfetto che in Belgio stiamo vedendo molto spesso. C'è un cinema che ha una grande consapevolezza dei propri mezzi, una grande cultura, un grande passato e però anche tanti grandi talenti presenti, sia a livello attoriale ma ancora di più a livello registico. Questo è dimostrato anche dal fatto, anche questo non è un termometro sempre della qualità ma in questo caso lo è, dal fatto che gli americani si sono subito comprati i diritti del remake. Addirittura saranno le due protagoniste, Jessica Chastain e Anne Hathaway, per farlo nel 2020 con lo stesso regista, e questo sì è il termometro di quanto sia bravo il regista. Questa storia è una storia molto potente che, come dicevi, ha tanto di Hitchcock, anche se non siamo abituati a vedere in questo contesto due donne che hanno questo ruolo da protagoniste e così originale. Racconta dell'ossessione moderna, dell'inquietudine, di un'affettività o di un'emotività che va oltre, no? Di una vicinanza che non è solo materiale e che diventa inquietante per la confidenza che si crea tra i due. Racconta anche il concetto di colpa nel cinema, che era una delle caratteristiche principali di Hitchcock, e anche l'indagine psicologica di chi di questa colpa in qualche modo si deve mondare, perché che cosa succede? Una delle due assiste impotente alla morte di una persona importantissima per l'altra, lei non ha colpe ma l'altra ha bisogno di trovare un colpevole, e questo crea una bomba che deve implodere, perché non può esplodere evidentemente, crea un desiderio di vendetta, crea appunto tutte quelle derive hitchcockiane che hanno reso grandissimo il film di Sir Alfred. Ma non è una copia di quel modello e di quella grammatica, perché qui c'è poi tutta la modernità di un regista che porta avanti sia la figura femminile sia i codici di genere, ancora il genere come in Por un buio, in maniera brillante e completamente originale. Il risultato è un film che vi farà tenere letteralmente il fiato sospeso e che vi farà fare anche parecchie domande su di voi, e questa forse è la cosa più bella che si possa chiedere a un film, e fa piacere che in una settimana in cui tanti film hanno rimandato la loro uscita, quelli che hanno deciso di resistere siano invece dei film di grandissima qualità. Doppio Sospetto quindi nei cinema italiani. Boris, appuntamento la prossima settimana, sperando ovviamente che sia un po' più ricca di questa per quanto riguarda la proposta. Alla prossima settimana e buon cinema. Andiamo a parlare del cinema da vedere in casa, come sempre, per avvicinarci poi alla conclusione della nostra trasmissione, cominciando a risentire un frammento del film misterioso della settimana scorsa. Marco, sono qui! Di cosa stai parlando? Sono qui! E allora avevamo giocato con La famiglia Addams, il film d'animazione uscito proprio all'inizio di questa stagione. I nostri due ascoltatori più bravi e veloci sono stati Jonathan Gallo di Milano e Anna De Rosa di Napoli, che riceveranno il Blu-ray della famiglia Addams, che ci facciamo raccontare da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, se i film degli anni 90 si ispiravano alla serie degli anni 60, questa nuova versione cartoon, che in realtà avrebbe dovuto essere diretta da Tim Burton e prodotta dalla Illumination, torna ai fumetti creati da Charles Addams nel 38, recuperandone la tondeggiante estetica in un'efficace animazione 3D che simula la stop motion, e cerca di adattare nei contenuti alla contemporaneità di reality e social per dimostrare che da vicino nessuno è normale, come da prassi della storia della famiglia Addams. Gli extra contano di 20 minuti di contributi, ma occhio, perché nella confezione c'è anche un bel booklet ricco di giochi da fare, disegni da colorare, come se la settimana enigmistica fosse a cura della famiglia Addams. E questo per quel che concerne il nostro film misterioso di 7 giorni fa. In attesa di svelare quello di oggi, invece, diamo un'occhiata ai palinsesti della prossima settimana, perché c'è un gran film da vedere. In chiaro, mercoledì 4 marzo alle 21:20 su Rai 4 arriva il momento di Dogman di Matteo Garrone. Periferia sospesa tra metropoli e natura selvaggia, l'unica legge è quella del più forte, e Marcello è un uomo mite che divide le sue giornate tra il lavoro nel suo salone di toilettatura per cani, l'amore per la figlia Lida e un ambiguo rapporto di sudditanza con Simoncino, ex pugile che terrorizza l'intero quartiere. Tieni, Simone, dobbiamo andare perché il negozio è aperto. Falla. Che? Oh! Simone. Falla parecchia. Ma qua? Sì, qua. Da sempre interessato all'animalità dell'uomo, Garrone inserisce il suo protagonista in un contesto che sa di western decaduto e mette in scena l'allucinata passeggiata nell'abisso della natura umana del suo protagonista, costretto dal peso dello sguardo degli altri, da un rapporto d'amore platonico che, come insegna Fassbinder, è sempre un rapporto di potere, e questo è un grande ritratto di miseria e di fragilità dall'autore di Pinocchio. E ricordiamo ancora l'appuntamento, allora, Dogman di Matteo Garrone, mercoledì 4 marzo alle 21:20 su Rai 4. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima settimana con le segnalazioni di Fin TV. E siamo giunti così alla fine della nostra trasmissione. Ci resta come sempre lo spazio per rivelarvi il nome del film misterioso di oggi. Il titolo è quello di Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatores, film che ha contrassegnato un po' la parte autunnale della stagione del cinema italiano. Vincitori la prossima settimana, noi saremo sempre qui alla Rosa Purpurea, sabato alle 18. Un saluto da Franco D'Assisi.